Storie italiane. L'omino di pan di zenzero. C'era una volta, in una piccola e vecchia casa, vivevano una vecchia donna con il marito. La coppia non aveva figli. Si sentivano soli. Così, un giorno, la donna decise di fare un ragazzo di pan di zenzero. Caro marito, oggi preparerò un omino di pan di zenzero. Aveva preparato tutto. Quindi mescolò attentamente la pastella, stese l'impasto e ritagliò un bellissimo omino di pan di zenzero. Ah, che bello omino di pan di zenzero ho fatto! Ora lo cuocerò. La vecchia donna lo mise nel forno per cuocerlo. Aspettò un po' di tempo e poi tornò al forno. Ha un profumo delizioso. Aggiunse della glassa per fare i capelli e la bocca. Usò delle caramelle per fare gli occhi e delle ciliegie per i bottoni. Fatto questo, saltò fuori un omino di pan di zenzero. La donna rimase stupita quando vide l'omino di pan di zenzero che correva. Non mangiarmi! Scappò fuori dalla finestra. Fermo! Fermo! Corri! Corri più veloce che puoi! Nessuno può prendermi, perché sono l'omino di pan di zenzero! La vecchia donna gli corse dietro, ma non riuscì a prenderlo. E l'omino di pan di zenzero correva, correva! Fermo! Mentre correva, lo vide la mucca. Che buon profumo! Così buono da mangiarlo! Sono scappato da una vecchia donna! Posso scappare anche da una mucca grassa come te! Certo che posso! E la mucca cominciò a inseguire l'omino. Ma l'omino di pan di zenzero correva più veloce. Corri! Corri più veloce che puoi! Nessuno mi può prendere, perché sono l'omino di pan di zenzero! La mucca rincorreva l'omino di pan di zenzero insieme alla vecchia donna, ma non riusciva a prenderlo. L'omino di pan di zenzero continuava a correre e presto incontrò un maiale sulla sua strada. Sembri così gustoso! Voglio mangiarti subito! Provaci, sporco maiale! Non puoi prendermi! Sono scappato da una vecchia donna! Sono scappato da una mucca! Di sicuro posso scappare da te! Di sicuro! Corri, corri più veloce che puoi! Nessuno mi può prendere, perché sono l'omino di pan di zenzero! Il maiale si unì alla donna e alla mucca per inseguire l'omino di pan di zenzero, ma non riuscì a prenderlo. L'omino di pan di zenzero correva e correva. Mentre correva, lo vide la gallina. Che pranzetto! Lo devo dare da mangiare ai miei piccoli! La gallina corse dietro all'omino di pan di zenzero. Sembri buona da beccare a cena! Ti porterò a casa dai miei piccoli, signor omino di pan di zenzero! Sono scappato da una vecchia donna! Sono scappato da una mucca! Sono scappato da un maiale! E posso scappare da te, piccola creatura! Corri, corri più veloce che puoi! Nessuno mi può prendere, perché sono l'omino di pan di zenzero! La gallina rincorse l'omino di pan di zenzero insieme al gruppo, ma non riusciva a prenderlo. L'omino di pan di zenzero era così fiero di se stesso. Che carrozza lenta questa gente! Correndo avanti, rallentò quando vide un fiume. Temeva di diventare molliccio nell'acqua. Vicino al fiume vide una volpe che sorseggiava dell'acqua. Che ottimo cibo per il mio stomaco oggi! Anche la volpe corse dietro all'omino di pan di zenzero. Ehi tu, giovanotto, potremmo diventare amici se vuoi. Era la prima volta che l'omino di pan di zenzero sentiva parole così. E ne fu felice. Beh, signora Volpe, vorrei, ma una condizione. Vai avanti, signor pan di zenzero. Può aiutarmi ad attraversare il fiume? Sì, giovanotto. Perché no? L'omino di pan di zenzero si sentì sollevato. Forza, signor omino di pan di zenzero. Sulla mia schiena. Ti aiuterò ad attraversare il fiume. L'omino di pan di zenzero salì sulla sua schiena. E così, sull'astuta volpe, raggiunse l'altra sponda del fiume. Ma la volpe lo fece roteare in aria e aprì la sua grossa bocca. Di scatto. E l'omino ci finì dentro. Davvero molto buono. E questa fu la fine dell'omino di pan di zenzero.